coprifuoco e pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco. Ora non c'è più tempo per pensare, tutti dentro chiusi ad aspettare. Ognuno ha avuto le sue razioni, poveri e ricchi, cattivi e buoni. Ognuno ha fatto le sue preghiere, ora si tratta solo di aspettare. Bravi su, bravi ragazzi, ma non è il caso di agitarsi. Bravi su, fate i bravi ragazzi, vedrete che poi sistemeremo tutto. Fronteggiare la situazione, c'è stato un programma alla televisione. Hanno parlato tutti gli avvocati di tutte le bandiere, di tutti i partiti. Ed è stato proprio commovente vedere tutti quei grandi sacrificare le proprie idee in nome del bene della gente. Poi hanno dato severe istruzioni di stare calmi e di stare buoni. Buoni su, buoni ragazzi, ma non è il caso di agitarsi. Bravi su, fate i bravi ragazzi, vedrete che poi sistemeremo tutto. Agitarsi. Bravi su, fate i bravi ragazzi, vedrete che poi sistemeremo tutto. Sistemeremo tutto. Sistemeremo tutto.